fatto per noi la luna e l'ha messa nel punto giusto, anche se il vino all'altro tavolo certo ha un fascino e un altro gusto. E se ne vanno, ma dove vanno se tutto qui? Ma cosa fanno? Ma cosa fanno se già c'è chi ha piazzato in cielo quei lampioni? È una storia da farti male, e le fragole e poi i limoni, e le maschere a carnevale. Ha ammazzato il migliore, un eroe, e ci ha fatto voler male a mamma. Topolino, Tex, Arturo e Zoe, piano piano cresceva il dramma. E se ne vanno, ma dove vanno se tutto qui? Ma cosa fanno? Ma cosa fanno se già c'è chi? I prossimi cent'anni, ma non so come finirà, e ha deciso che per me è finita, con le lacrime consumate, ma mi resta un attimo di vita, e chissà forse un'altra estate. E se ne vanno, ma dove vanno se tutto qui? Ma cosa fanno? Ma cosa fanno? Ma cosa fanno se già c'è chi?